Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni, o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Alessia. La Divina Commedia di Dante, di Dante Alighieri. Libro secondo, capitolo decimo. Canti dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo. Di pari, come buoi che vanno a giogo, m'andava io con quell'anima carca, finché il sofferse il dolce pedagogo. Ma quando disse, lascia lui e varca, che qui è buono con l'ali e coi remi, quantunque può, ciascuno pinger sua barca. Dritto sì, come andar vuol, si rifemi con la persona, avvegna che i pensieri mi rimanessero e chinati e scemi. Io m'era mosso, e seguia volentieri del mio maestro i passi, e amendue già mostravan com'eravan leggeri. Ed el mi disse, volgi gli occhi in giue, buon ti sarà, per tranquillar la via, veder lo letto delle piante tue. Come? Perché di lor memoria sia? Sovra i sepolti le tombe terragne portan segnato quel ch'egli eran pria. Onde li molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza, che solo ai pii dà delle calcagne. Si vid'io lì, ma di miglior sembianza secondo l'artificio, figurato quanto per via di fuor del monte avanza. Vedea colui che fu nobil creato più ch'altra creatura, giù dal cielo folgoreggiando scender da l'un lato. Vedea Briareo, fitto dal telo celestial giacer, dall'altra parte grave alla terra per lo mortal gelo. Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, armati ancora intorno al padre loro, mirar le membra di giganti e Sparte. Vedea Nembrot, a piè del gran lavoro, quasi smarrito, e riguardar le genti che assennar con lui superbi fuoro. O Niobe, con che occhi dolenti vedea io te segnata in sulla strada, tra sette e sette tuoi figlioli spenti. O Saul, come in su la propria spada cui vi pareva morto in Gelboe, poiché non sentì pioggia né rugiada. O folle aragne, si vedea io te, già mezza ragna, triste in su gli stracci dell'opera che mal per te si fe. O Roboam, già non par che minacci quivi il tuo segno, ma pien di spavento nel porta un carro, senza ch'altri il cacci. Mostrava ancor lo duro pavimento, come Almeone sua madre fe caro, parer lo sventurato addornamento. Mostrava come i figli di Sigittaro, sovra Senarcherib, dentro dal tempio, e come, morto lui, quivi il lasciaron. Mostrava la ruina e il crudo scempio che fe Tamiri quando disse a Ciro, sangue si tisti e io di sangue tempio. Mostrava come in rotta si fuggiro gli Assiri, poiché fu morto Oloferne e anche le reliquie del martiro. Vedea Troia in cenere e in caverne, o Ilion come te basso e vile mostrava il segno che lì si discerne. Quale di pennel fu maestro di stile che ritraesse l'ombra e i tratti chi vi mirar fariero un ingegno sottile? Morti li morti e i vivi parean vivi. Non vide mei di me chi vide il vero, quant'io calcai fiché chinato givi. Or superbite e via col viso altero, figliuol d'Eva e non chinate il volto sicché veggiate il vostro mal sentero. Più era già per noi del monte volto, e del cammin che del sole assai più speso, che non stimava l'animo me sciolto. Quando colui che sempre innanzi atteso andava, cominciò, drizza la testa, non è più tempo di girsi sospeso. Vedi colà un angel che s'appresta per venir verso noi, vedi che torna dal servigio del dì l'ancella sesta. Di reverenza il viso e gli atti adorna, sicché i diletti lo inviarci in suso. Pensa che questo di mai non ragiona. Io era ben del suo ammonir uso, pur di non perder tempo, si che in quella materia non potea parlarmi chiuso. A noi venia la creatura bella, bianco vestito e nella faccia quale par tremolando mattutina stella. Le braccia aperse e indi aperse l'ale, disse: venite, qui son presso i gradi e agevolmente omai si sale. A questo invito vegno molto radi, o gente umana, per volar su nata, perché a poco vento così cadi? Minocci ove la roccia era tagliata, quivi mi batté le ali per la fronte, poi mi promise sicura l'andata. Come a man destra, per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Rubaconte. Si rompe dal montar l'ardita foga, per le scalee che si fero etade, che era sicuro il quaderno e la doga. Così s'allenta la ripa che cade quivi ben ratta dall'altro girone, ma quinci e quindi l'alta pietra rade. Noi, volgendo ivi le nostre persone, beati pauper spiritu, voci cantaron sì, che nol diria sermone. Ai, quanto son diverse quelle foci, dal fernali che quivi per canti s'entra, e laggiù per lamenti feroci. Già montavamo su per gli scaglion santi, ed esser mi parea troppo più lieve, che per lo piano mi parea davanti. Ond'io, maestro, di, qualcosa greve levata se da me che nulla quasi per me fatica andando si riceve? Rispuose, quando il pi, che son rimase ancor nel volto tuo presso che estinti saranno, come l'un del tutto rasi, fier li tuoi piedi al buon volersi vinti, che non pur non fatica sentiranno, ma fia diletto lor d'esser sospinti. Allor fec'io come color che vanno con cose in capo non da lor saputa, se non che cenni altrui sospecciar fanno, perché la mano ad accertar s'aiuta e cerca e trova quel ch'officio adempie che non si può fornir per la veduta, e con le dita della destra scempie trovai pur 6 lettere che incise quel che delle chiavi ha messo sovra le tempie. A che guardando il mio duca sorrise. Fine del canto dodicesimo. Noi eravamo al sommo della scala, dove secondamente si risega lo monte che salendo altrui dismala. Ivi così la una cornice lega, d'intorno al poggio come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto piega. Ombra non linee e segno che si paia, parsi la ripa e parsi la via schietta con livido color della petraia. Se qui per dimandar gente s'aspetta, ragionava il poeta, io temo forse che troppo avrà indugio nostra eletta. Poi fissamente al sole gli occhi porse, fece del deserto lato al muover centro, e la sinistra parte di sé torse. O dolce lume, a cui fidanza io entro per lo nuovo cammin, tu ne conduci, dicea come condur si vuol qui in centro. Tu scaldi il mondo, tu sovresso luci, s'altra ragione al contrario non ponta, esser dien sempre li tuoi raggi duci. Quanto di qua per un migliaio si conta, tanto di là eravam noi già iti, con poco tempo per la voglia pronta, e verso noi volaron furi sentiti, non però visti, spiriti parlando alla mensa d'amor cortesi inviti. La prima voce che passò volando, vinum non habent, altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. E prima che del tutto non si udisse, per allungarsi un'altra i sono reste, passò gridando, e ancor non s'affisse. Oh, dissi io, padre, che voci son queste? E com'io domandai, ecco la terza, dicendo, amate da cui male aveste. E il buon maestro, questo scinghio sferza la colpa dell'invidia, e però sono tratte d'amor le corde della ferza. Lo fren vuol essere del contrario suono, credo che l'udirai per mio avviso, prima che giunghi al passo del perdono. Mi ficca gli occhi per l'aere ben fiso, e vedrai gente innanzi a noi sedersi, e ciascuno è lungo la grotta assiso. Allora più che prima gli occhi apersi, guardami innanzi e vidi ombre con manti al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti, udia gridar Maria, ora per noi, gridar Michele e Pietro e tutti i santi. Non credo che per terra vada ancoi, omo si duro che non fosse punto per compassion di quel che vidi poi. Che, quando fui sì presso di lor giunto, che li atti loro me ne venivan certi, per gli occhi fui di grave dolor munto. Di vil ciliccio mi parean coperti, e l'un sofferia l'altro con la spalla, e tutti dalla ripa eran sofferti. Così dice che a cui la roba falla, stanno a perdoni a chieder lor bisogna, e l'uno il capo sopra l'altro avvalla. Perché n'altrui pietà tosto si pogna, non pur per lo sonar delle parole, ma per la vista che non meno s'agogna. E come che li orbi non approda al sole, così è l'ombre quivi, ond'io parlo ora, luce del ciel di sé largir non vuole. Che a tutti un fil di ferro i cigli fora, e cusce sì, come a sparvier selvaggio si fa però che queto non dimora. A me pareva, andando, fare oltraggio, veggendo altrui, non essendo veduto, e perch'io mi volse il mio consiglio saggio. Ben sapevei che volea dirlo muto, e però non attese mia dimanda, ma disse, parla, e sie breve arguto. Virgilio, mi venia da quella banda della cornice onde cader si puote, perché da nulla sponda si inghirlanda. Dall'altra parte m'era le divote ombre che per l'orribile costura premevan sì che bagnavan le gote. Volsimi a loro e, o gente sicura, incominciai, di veder l'alto lume che il disio vostro solo ha in sua cura. Se tosto grazia resolva le schiume di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scenda della mente il fiume. Ditemi, che mi fia grazioso e caro, s'anima è qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buon sì l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina di una vera città, ma tu vuoi per dire che vivesse in Italia peregrina. Questo mi parve per risposta udire più dinanzi alquanto che là dov'io stava, ond'io mi fece ancor più la sentire. Tra le altre vidi un'ombra che aspettava in vista, e se volesse alcun dire, com'è? Io lo mento a guisa d'orbo insullevava. Spirto, dissi io, che per salirti d'ome, se tu sei quelli che mi rispondesti, fammiti conto per luogo o per nome. Io fui sanese, rispose, e con questi altri rimendo qui la vitaria, lagrimando a colui che se ne presti. Savia non fui, avvegna che la sapia fossi chiamata, e fui degli altrui danni la più lieta assai che di ventura mia. E perché tu non creda che io t'inganni, odi si fui, com'io ti dico, folle, già discendendo l'arco di miei anni. Eran lì cittadin miei presso colle, in campo giunti con loro avversari, e io pregavo Dio di quel che volle. Rotti fuor quivi e volti negli amari passi in fuga, e veggendo la caccia letizia prese a tutte le altre dispari. Tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia gridando a Dio, ormai più non ti temo, come fe il merlo per poca bonaccia. Pace volli con Dio in su lo stremo della mia vita, e ancor non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo. Se ciò non fosse, ch'a memoria m'ebbe Pier Pettinaio in sue sante orazioni, a cui di me per caritate increbbe. Ma tu chi sei, che nostre condizioni vai dimandando e porti gli occhi sciolti, sì come io credo, espirando ragioni? Gli occhi, diss'io, mi fiano ancor qui tolti, ma picciol temo che poca è l'offesa fatta per essere con invidia volti. Troppa è più la paura ond'è sospesa l'anima mia del tormento di sotto, che già l'onnarco di là giù mi pesa. Ed ella me, chi t'ha dunque condotto quassù tra noi, se giù ritornar credi? E io, costui che è meco e non fa motto. E vivo sono. E però mi richiedi, spirito letto, se tu vuoi che mi muova di là per te ancor li mortai piedi. Oh, questa è a di udirsi cosa nuova, rispose, che gran segno è che Dio t'ami, però col priego tuo talor mi giova. e chieggiotti, per quel che tu più brami, se mai calchi la terra di Toscana, ca miei propinqui tu ben mi rinfami. Tu li vedrai in quella gente vana che spera in Talamone, o perdiragli più di speranza che a trovar la Diana, ma i più vi perderanno gli ammiragli. Fine del capitolo tredicesimo. Chi è costui che il nostro monte cerchia prima che morte gli abbia dato il volo e apre gli occhi a sua voglia e coverchia? Non so chi sia, ma so che ei non è solo. Domanda al tu che più li t'avvicini e dolcemente, sì che parli, accolo. Così, due spiriti, l'uno all'altro chini, ragionavan di me, ivi a man dritta, poi ferli visi per dirmi supini. E disse l'uno, o anima che fita nel corpo ancora in ver, lo scelte ne vai, per carità ne consola e me ne ditta. Onde vieni e chi sei, che tu ne fai tanto maravigliar della tua grazia quanto vuol cosa che non fu più mai. E io, per mezza Toscana si spazia, un fiumicel che nasce in Falterona, e 100 miglia di corso non sazia. Di sovresso rechio questa persona, dirvi chi sia, saria parlare d'Arno, che il nome mio ancor molto non suona. Se ben lo intendimento tu accarno, con lo intelletto, allora mi rispuose quei che diceva pria, tu parli d'Arno. E l'altro disse lui, perché nascose questi il vocabolo di quella riviera, pur come un fa dell'orribil cose? E l'ombra di ciò domandata era. Si sdebitò così. Non so, ma degno ben è che il nome di tal va, che dal principio suo, ovesti pregno l'alpestro monte onde è tronco peloro, che in pochi luoghi passa oltre quel segno. Infin, là, ve si rende per ristoro di quel che il ciel della marina asciuga, ond'hanno i fiumi ciò che va con loro. Vertù così per nemica si fugga, da tutti come biscia, o per sventura del luogo, o per maluso di ricchi fruga. Ond'hanno si mutata lor natura gli abitator della misera valle, che par che Circe li avesse in pastura. Tra brutti porci, più degni di galle, che d'altro cibo fatto in mano uso, dirizza prima il suo povero calle. Botoli trova poi, venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e lor disegnosa torce il muso. Bassi caggendo, e quant'ella più ingrossa, tanto più trova di canfarsi lupi, la maledetta e sventurata fossa. Discesa poi per la più pelaghi cupi, trova le volpi si piene di froda, che non temono ingegno che le occupi. Ne lascerò di dir perché altri moda, e buon sarà costui, s'ancor s'ammenta di ciò che vero spirito mi snoda. Io veggio tuo nepote che diventa cacciator di quei lupi in sulla riva del fiero fiume, e tutti li sgomenta. Vende la carne loro essendo viva, poscia li ancide come antica belva, molti di vita e di pregio priva. Sanguinoso esce dalla trista selva, lasciatala tal che di qui a 1000 anni nello stato primaio non si rinselva. Come all'annunzio di dogliosi danni si turba il viso di colui ch'ascolta, da qualche parte il periglio l'assanni. Così vid'io l'altra anima, che volta stava a udir turbarsi e farti sì trista, poiché ch'ebbe la parola se raccolta. Lo dir dell'una e dell'altra la vista mi fer voglioso di saper lor nomi, e dimanda ne fei con prieghi mista. Perché lo spirito, che di pria parlò, mi ricominciò. Tu vuoi ch'io mi deduca nel fare a te ciò che tu far noi uomi. Va da me che Dio in te vuol che trasluca, tanto sua grazia non ti sarò scarso. Però sappi ch'io fui guido del duca. Fu il sangue mio d'invidia si riarso, che se veduto avesse uom farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso. Di mia sei mente co tal paglia mieto, o gente umana, perché pone il core là ve mestier di consorte di vieto? Questi è rinier, questi è il pregio e l'onor della casa dei Calboli, ove nullo fatto s'ereda poi che suo valore. e non pur lo suo sangue fatto brullo, tra il Po, il monte e la marina il Reno, del ben richiesto al vero e al trastullo. Che è dentro a questi termini è ripieno di venosi sterpi, sì che tardi per coltivare ormai verrebber meno. Ov'è il buon Lizio e Arrigo Mainardi? Pier Traversaro e Guido di Carpigna? O Romagnuol tornati in bastardi? Quando in Bologna un fabbro si ralligna? Quando in Faenza un Bernardin di Fosco, verga gentil di picciola gramigna? Non ti maravigliarsi, o piango, tosco, quando rimembro con Guido de Prata Ugolin d'Azzo che vivette nosco, Federico Tignoso e sua brigata, la casa attraversare gli Anastagi, e l'una gente e l'altra è direttata, le donne e cavalier, gli affanni e gli agi, che ne invogliava amore e cortesia, laddove i cuori son fatti si malvagi. O Bretinoro, che non fuggi via, poiché gitansi la sua famiglia a molta gente per non esser ria? Ben faceva Bagnacaval, che non rifiglia, e mal fa Castrocaro, e peggio Conio, che di figliar tanti conti più s'impiglia. Ben faranno i pagan, da che il demonio lor sen girà, ma non spero che puro giammai rimagna d'essi testimonio. O Ugolin de Fantolin, sicuro è il nome tuo, da che più non s'aspetta che farlo possa tralignando scuro. Ma via via, tosco, ormai. Cor mi diletta troppo di pianger più che di parlare, sì ma nostra ragion la mente stretta. Noi sapavam che quell'anime care ci sentivano andar, però, tacendo, facea noi del cammin confidare. Poi fummo fatti soli procedendo, folgore e parve quando l'aere fende, voce che giunse di contra dicendo. Ancinderammi, qualunque m'apprende, e fuggi come tuon che si dilegua, se subito la nuvola scoscende. Come da lei l'udir nostro ebbe tregua, ed ecco l'altra, con sì gran fracasso, che somiglior tornar tosto segua. Io son Aglauro, che divenni sasso, e allor per restringermi al poeta, in destro feci e non innanzi il passo. Già era Laura d'ogni parte queta, ed el mi disse, quel che fu duro camo, che dovria l'uom tener dentro a sua meta. Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo dell'antico avversaro a se vi tira. E però poco val freno o richiamo. Chiamavi il cielo intorno vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne, e l'occhio vostro pur a terra mira, onde vi batte chi tutto discerne. Fine del canto quattordicesimo. Quanto tra l'ultimar dell'ora terza e il principio del dì parla spera, che sempre a guisa del fanciullo scherza. Tanto pareva già inver la sera essere al sol del suo corso rimaso, vespero là a cui mezzanotte era. E ragine ferien per mezzo il naso, perché per noi girato era sì il monte, che già dritti andavano inver l'occaso. E quando io sentì a mer gravar la fronte, allo splendore assai più che di prima, ai stupor m'eran le cose no conte. Ond'io levai le mani inver la cima delle mie ciglia, e fecimi il solecchio, che del soverchio visibil lima. Come quando dall'acqua lo specchio salta lo raggio all'opposta parte, salendo su per lo modo parecchio, a quel che scende tanto si diparte dal cader della pietra in igual tratta, siccome mostra esperienza e arte. Così mi parve della luce rifratta, quivi dinanzi m'esser percosso, perché a fuggire della mia vista fu ratta. Che è quel, dolce padre, a che non posso schermar lo viso tanto che mi vaglia, diss'io, e pare inver non esser mosso? Non ti maravigliar, s'ancor t'abbaglia, la famiglia del cielo, a me rispose, messo a che viene invitar con saglia. Tosto sarà che a veder queste cose non ti fia grave, ma fiete diletto, quanto natura sentir ti dispose. Poi giunti fummo all'angel benedetto, con lieta voce disse, entrate quinci ad un scaleo, vien men che li altri retto. Noi montavam, già partiti di linci, e beati misericordes, fui cantato retro, e godi tu che vinci. Lo mio maestro io soli a me due sus andavamo, e io pensai, andando, pro d'acquistar nelle parole sue. E drizzami a lui si dimandando. che volse dir lo spirito di Romagna? E di Vieto? E consorte menzionando? Perch'egli a me, di sua maggior magagna conosce il danno, e però non s'ammiri né si riprende perché men si piagna, perché s'appuntano i vostri disiri dove per compagnia parte si scema, invidia muove il mantaco a sospiri. Ma se l'amor della spera suprema torcesse in suso desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema. Che, per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno, e più di caritate arde in quel chiostro. Io son d'esser contento più digiuno, diss'io, che se mi fosse pria taciuto, e più di il dubbio nella mente ad uno. Com'esser puote con ben distribuito, in più posseditor, faccia più ricchi di sé, che se da pochi è posseduto? Ed egli a me. Però che tu rificchi, la mente pura alle cose terrene, di vera luce tenebre di spicchi. Quello è infinito e ineffabil bene che lassù è, così corre ad amore come al lucido corpo raggio vene. Tanto si dà quanto trova l'ardore, sicché, quantunque carità si stende, crescer sovressa l'eterno valore. E quanta gente più lassù s'intende, più veda ben amare e più vi s'ama, e come specchio l'uno e l'altro rende. E se la mia ragion non si disfama, vedrai Beatrice, ed ella pienamente ti torrà questa ciascuna altra brama. Procaccia più che tosto sieno spente, come son già le due, le cinque piaghe, e che si rinchiudono per esser dolente. Come io voleva dicer, tu m'appaghe, vidimi giunto in sull'alto girone, sicché tacer mi fer le luci vaghe. Ivi mi parve in una visione estatica di subito esser tratto, e vedere in un tempio più persone. E una donna, in sull'entrar con atto dolce di madre dicer, figliuol mio, perché hai tu così verso nei fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre e io ti cercavamo. E come qui si tacque, ciò che pareva prima, disparìo. Indi m'apparve un'altra con quell'acque giù per le gote che il dolor distilla quando di gran dispetto in altrui nacque. E dir, se tu sei sire della villa, del cui nomine dei fui tanta lite e onde ogni scienza di sfavilla, vendica te di quelle braccia ardite che l'abbracciar nostra figlia, o Pisistrato, e il Signor mi parea benigno e mite, rispondere lei con viso temperato. Che farem noi a chi mal ne desira, se quei che ci ama è per noi condannato? Poi vidi gente accese il fuoco d'ira, con pietre un giovinetto ancider forte, gridando e seppur, martira, martira! E lui vedea chinarsi per la morte, che la gravava già, inver la terra, ma degli occhi facea sempre al ciel porte. Orando all'alto sire, in tanta guerra, che perdonasse ai suoi persecutori, con quell'aspetto che pietà diserra. Quando l'anima mia tornò di fuori, alle cose che son fuor di lei avere, io riconobbi i miei non falsi errori. Lo duca mio, che mi potea vedere far sì com'on che del sonno si slega, disse, che hai che non ti puoi tenere? Ma sei venuto più che mezza lega velando gli occhi e con gambe avvolte a guisa di cui vino o sonno piega? O dolce padre mio, se tu m'ascolti io ti dirò, diss'io, ciò che m'apparve quando le gambe mi furon si tolte. Ed ei, se tu avessi 100 larve sovra la faccia, non mi sarian chiuse le tue cogitazioni, quantunque apparve. Ciò che vedesti fu perché non scuse d'aprir lo cuore e l'acqua della pace che dall'eterno fonte son diffuse. Non dimandai che hai per quel che face chi guarda pur con l'occhio che non vede, ma dimandai per darti forza al piede, così frugar conviensi pigri, lenti ad usar lor vigilia quando riede. Noi andavam per lo vespero, attenti oltre quanto potean gli occhi allungarsi contro i raggi serotini e lucenti. Ed ecco a poco fummo farsi verso di noi come la notte oscura né da quello era loco da cansarsi. Questo ne tolse gli occhi e l'aere puro. Fine del capitolo 15. Buio d'inferno e di notte privata ad ogni pianeto, sotto pover cielo, quant'esser più di nuvol tenebrata. Non fece al viso mio sì grosso velo come quel fumo ch'ivi coperse, né a sentir di così aspro pelo.

in sul paese Cadice e Porriga, solea valore e cortesia trovarsi, prima che Federico avesse briga. Or può sicuramente indi passarsi per qualunque lasciasse, per vergogna di ragionar coi buoni o d'appressarsi. Ben ven che tre vecchi ancora in cui rampogna l'antica età la nova, e par lor tardo che Dio il miglior vita li ripogna. Currando da palazzo, e il buon Gherardo e il Guido de Castel, che miei si noma francescamente, il semplice Lombardo. Di oggi mai che la chiesa di Roma, per confondere in sé due reggimenti, cade nel fango e se butta e la soma. O Marco mio, dissi io, ben argomenti, e or discerno perché dal retaggio i figli di Levi furono assenti. Ma qual Gherardo è quel che tu per saggio di chi è rimaso nella gente spenta al rimprovero del secolo selvaggio? O tuo parlar mi inganna, o el mi tenta, rispose a me, che, parlandomi tosco, par che del buon Gherardo nulla senta. Per altro soprannome io non lo conosco, sì io non togliesse da sua figlia Gaia. Dio sia con voi, che più non vegno fosco. Vedi l'albor che per lo fummo raia già biancheggiar, e a me convien partirmi, l'angelo e ivi, prima che io li paia. Così tornò e più non volle udirmi. Fine del canto 16. Fine del capitolo 6.